Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo a Vicoforte, dove c'è uno dei più grandi santuari d'Italia, uno dei più grandi e importanti monumenti barocchi della nostra nazione. Oggi è arrivato alla ribalta perché nei giorni scorsi, come ricorderete, sono stati sepolti in questo santuario le salme di Vittorio Emanuele III e della regina Elena. Questo santuario in realtà ha una storia straordinaria e vorrei raccontarvela brevemente. Venne realizzato, come tutti i santuari, a seguito di un miracolo, un curioso miracolo. Un cacciatore che si trovava nelle campagne sparò senza volerlo a una colonnina dove c'era l'immagine della Madonna. Ferì questa immagine e da questa immagine sgorgò il sangue. Da lì naturalmente cominciarono ad affluire i pellegrini e il duca di Savoia, Carlo Emanuele I, decise alla fine del Cinquecento di costruire un grande santuario, ma davvero un grande santuario. Un edificio enorme, lo affidò ad Ascanio Vitozzi, che era anche architetto e anche un nobile di Casa Savoia, e questo edificio naturalmente partì con le migliori intenzioni e rimase incompiuto. Soprattutto rimase incompiuta la colossale cupola ellittica, forse la più grande cupola ellittica che c'è al mondo. Solo all'inizio del Settecento, scusate, venne realizzata questa cupola da un altro architetto che si chiamava Francesco Gallo, il quale, aiutato da Filippo Juvarra, che era il più grande architetto presente in quegli anni, a Torino e nei dintorni, realizzò questa arditissima struttura, e il momento in cui si disarmò la cupola, cioè si tolsero i ponteggi, l'architetto fu solo, fu abbandonato da tutti perché nessuno si fidava che tutto quell'enorme spazio potesse reggere. Gallo non solo si presentò a questa operazione, ma portò la sua famiglia per dimostrare che questa cupola sarebbe rimasta in piedi, come in effetti possiamo ammirare oggi, tra l'altro meravigliosamente affrescata da Mattia Bortoloni, che era un pittore del Settecento, seguace di Giovanni Battista Tiepolo.